legata a un granello di sabbia, Nico Fidenco. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, ai, ai, ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte. Applausi più che meritati e sola sola per Nico Fidenco con questa canzone dal titolo Legata a un granello di sabbia. Sembrava quasi di essere al Festival di Sanremo. Continuiamo a parlare di anni 60, ora invece leggiamo i principali avvenimenti che si sono sviluppati in quel periodo. Nel 1960, per esempio, un fatto di cronaca, un terremoto uccide un terzo della popolazione di Agadir in Marocco. Sempre nello stesso anno un terremoto più forte, viene definito più forte del XX secolo, si abbatte sul Cile con un magnitudo del 9,5%. E nel 1960 c'è l'inaugurazione per l'appunto delle Olimpiadi con sede a Roma. Leggiamo qualche altra notizia, questa volta però del 1961. Il 20 gennaio John Fitzgerald Kennedy diviene il 35esimo presidente statunitense, con i suoi 43 anni è il secondo più giovane inquilino della Casa Bianca e propone le ambiziose sfide della nuova frontiera che conquistano gli americani. Un altro fatto importante, il 12 aprile l'astronauta sovietico Yuri Gagarin è il primo uomo a compiere un volo spaziale. Ad agosto invece, sempre del 1961, i sovietici iniziano la costruzione del muro di Berlino. Vediamo anche che cosa accade nel 1962. C'è la crisi dei missili di Cuba dal 5 al 28 di ottobre 1962. Poi invece l'8 ottobre Papa Giovanni XXIII pronuncia il discorso della Luna. Ah, un altro avvenimento importante: viene pubblicato il primo 45 giri dei Beatles, Love Me Do. E purtroppo il 4 agosto del 62 Marilyn Monroe viene trovata morta nella camera da letto della sua casa a Los Angeles, pensate un po', all'età di 36 anni, ufficialmente a causa di un'overdose di barbiturici. Però ancora oggi la morte di Marilyn Monroe è veramente avvolta nel mistero più assoluto. Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai. Un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto capirai. Gli occhi miei era Dino. Vi piace questo 45 giri? Che ne dite? Eh beh, vedo che vi piace, sento che vi piace, fate bene. Grazie anche a Dino con questo 45 giri dal sapore veramente vacanziero. Siete sempre a bordo dell'astronave Enterprise, speciale anni 60, siamo nel pianeta degli anni 60, vediamo velocemente che cosa accade nel 1963, almeno le notizie più importanti. Martin Luther King, praticamente a Washington, organizza la marcia della pace e chiede insieme, pensate un po', a oltre 200.000 persone l'integrazione razziale. Il 28 agosto tiene lo storico discorso I Have a Dream. Il 22 marzo esce Please Please Me, il primo album dei Beatles. Purtroppo il 3 giugno muore Papa Giovanni XXIII. Vediamo se accade qualcos'altro di interessante. Beh, purtroppo anche il 22 novembre a Dallas, Texas, Stati Uniti, viene ucciso John Fitzgerald Kennedy, il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Vediamo l'anno seguente se accade qualcosa di interessante. Abbiamo praticamente... viene incarcerato in Sudafrica Nelson Mandela. Insomma, non è proprio una bella notizia. Pensate che ha passato oltre 30 anni in carcere, veramente, Nelson Mandela. Nel 65 invece vengono inviate truppe americane in Vietnam del Sud. Viene assassinato Malcolm X mentre viene arrestato Martin Luther King. Papa Pio IV chiede solennemente l'8 dicembre in Concilio Vaticano, nell'ottobre viene inventato il primo personal computer, pensate un po', da chi? Dalla Olivetti. Noi nel 65 inventavamo i computer mentre gli americani giocavano ancora con le bambole, poi purtroppo non siamo stati capaci di, diciamo, portare avanti questo bellissimo, bellissimo discorso che Olivetti ha cercato di fare negli anni. Sarebbe veramente doveroso dedicare uno speciale anche a Olivetti. purtroppo, come mi dicono al di là del vetro, giusto Spac? Sono sì, felice. Sì, mi dica. Di vederla, capitano. Certo. Non sembra ferito. No, no, no, assolutamente. Però le volevo chiedere Spac, che purtroppo è arrivato il momento di chiudere Star Trek. E vabbè, ragazzi, cosa volete fare? Bisognerebbe fare una parte seconda degli anni 60. Bisognerebbe tornare a rivisitare ancora questo pianeta abbastanza spesso, che ne dite? È proprio arrivato il momento dei saluti. Io ringrazio tutti per aver ascoltato Star Trek Viaggio nella storia della musica. Questa sera un viaggio veramente intrigante e molto bello. Fatti, vedete gli applausi, e ringraziano proprio per aver, diciamo così, introdotto le tematiche degli anni 60, un periodo stupendo della nostra nazione, del boom economico. Prometto che magari faremo qualche altro speciale dedicato proprio a questa musica, magari vedremo un po', alterneremo un po' brani italiani con brani americani. Allora, in finale vi ricordo il sito www.startrekonline.org, dove potete interagire con il programma se avete voglia. Lì trovate tutti i vari link per i social network, potete anche interagire su Twitter. L'account è @demangia, non è cambiato, è sempre lo stesso. Io direi di introdurre l'ultima canzone che conclude questo viaggio storico negli anni 60. Tra le tante ho selezionato forse uno dei simboli proprio di quegli anni. Quando si ascolta questa canzone, ovviamente si pensa subito all'estate, agli anni 60, allo svago, al divertimento, alla genuinità, ma anche alla creatività e soprattutto anche alla spensieratezza di quegli anni. Meraviglioso. L'ultima canzone che chiude ufficialmente Star Trek è di Gino Paoli con Sapore di sale. Grazie a tutti ancora una volta per l'attenzione, ci risentiamo prossimamente. Gino Paoli. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango.